grazie ai Nihil Hest, che sono venuti qui fino a qua da Milano per proporre il loro nuovo disco, un disco molto bello, molto interessante. Questo è Rock Wave, questa è la trasmissione dal vivo, come ogni mercoledì ospitiamo delle band assolutamente indie, possiamo dire indie? Sì, sì, alternative. Sì, facciamo tutto da soli, facciamo tutto da soli. Vi pagate tutto, siete alternativi al 100%. Questo è Rock Wave, un programma a cura di Maurizio Calzavani, in regia c'è Michele Tosò, assieme ad Agostino Spolaore e a Roberto Baldi, che ha curato la realizzazione delle webcam. Quindi stasera vi stanno inquadrando le webcam, quindi in tutta Italia le webcam vi inquadrano, vi fanno vedere praticamente. Partiamo dall'origine. Come si è sviluppato il concetto della vostra musica? È una musica molto eterea, secondo me, sognante, affascinante, con certe quadrature alle tastiere, certi, non dico campionamenti, ma certi usi delle tastiere che questa sera, per ovvi motivi, saranno un po' ridotti, perché questa è una trasmissione pseudoacustica, anche se c'è un bel basso elettrico che fa bene alla salute, praticamente. Come avete l'idea, come è nata? Voi siete in sei, stasera siete in cinque per il sassofonista, purtroppo. Siamo in sei. Ah, siete in sei, per il sassofonista non c'è? Sassofonista al settimo, ecco, vedi. È il 6+1. Al 6+1, e come esattamente, come le band di una volta, che avevano il più uno. Perfetto, allora, mi spiegate un momento come è nata l'idea di questa band. Allora, l'idea è nata fondamentalmente da me, Vito, ci presentiamo, cantante, visto che ci siamo. E Luca, chitarrista. Benissimo. E noi suonavamo prima in una band, facevamo punk rock. Ah, un po' diverso allora dal genere, sì, che fate, sì, adesso. Vero. Anche se il punk, non dico che entra nel vostro DNA, però qualcosina nell'aereo forse c'è. Ma secondo me si inizia sempre più o meno dalla cosa più potente per, certo, per l'urgenza, no? E poi vabbè, appunto, partendo da lì eravamo noi due insieme ad altri ragazzi, abbiamo sciolto l'allora gruppo e abbiamo iniziato a creare questi Nihil Hest, che da una formazione totalmente diversa piano piano sono arrivati a questa cosa qua. Prima facevamo una specie di metal psichedelico. Bello il metal psichedelico. Com'è il metal psichedelico? È bello, non c'è niente di male poi. Quindi metal e psichedelia insieme. Sì, e poi appunto abbiamo lasciato perdere le cose più pesanti, ci siamo sbizzarriti poi, perché prima non eravamo in sei. Adesso siete in sette, quindi è difficile, scusami, tenere sette diverse conoscenze musicali, è difficile, è complesso o no? Sì, Viola, cosa dici te? È complesso? Decisamente. Dimmi. Vai. Sì, no, è bello perché comunque ci sono le influenze di sei, sette persone, per cui diciamo che il risultato è comunque l'unione di sei, sette menti molto diverse comunque. Siamo persone molto diverse sia da come ci presentiamo che poi nei gusti musicali, ognuno ha il suo apporto, diciamo, nel gruppo, però sicuramente è complicato. È complicato, però è interessante, perché fare un gruppo di sette persone, anzitutto il disco è affascinante in certi sensi, perché si sfoglia come una margherita, pezzo dopo pezzo, lentamente, si capisce dove volete arrivare. Già il titolo Nuvole Notturne, non siamo di notte qua, siamo sera, non ancora notte, però ha un certo rilievo, ha un certo fascino. Il disco è affascinato per certi versi perché gioca sulle tastiere, ma le gioca in modo acustico in alcuni momenti, un po' più pomposo, un po' più forte, però l'acusticità secondo me è la chiave di volta per tutti i nuovi pezzi. Non so se siete d'accordo, cosa dite? Bah, sì, diciamo che ecco, anche durante la preparazione del disco eravamo... Sei batterista che non è mica soddisfatto. Sì, è soddisfatto, sì. È soddisfatto. Eravamo, cioè, i pezzi li stavamo arrangiando anche con degli strumenti elettrici. Però durante la lavorazione ci siamo accorti che dei suoni anche più delicati e più intimi rendevano poi le atmosfere delle canzoni più... Erano più adatti a trasmettere quella che è poi l'intimità di questo CD, perché certo, per quanto mi riguarda è un disco abbastanza intimo e introspettivo, quindi... Sono d'accordo con te, ma non c'è che... c'è una esclusione dei momenti elettrici. Ci sono, però non sono i predominanti, possiamo dire questo. Cosa dici? No, penso siano predominanti. Però no, in realtà penso siano abbastanza equilibrati. Equilibrati, sì, esattamente, sì, sì, equilibrati. Era un po' quello che volevamo. L'idea era quella. Come si fa a fare un pezzo in sette persone diverse che pensano? Come si fa? Litigando. Ma è bello il litigare. È lo scontro che poi porta all'incontro. Ma litigare è una cosa positiva, cosa dici Viola? Litigare serve per portare a un punto, sì, un confronto. Sì, assolutamente, certo, confronto, ci vuole una buona dose di autoironia e spirito critico, però lo scontro poi porta ai risultati migliori, credo. I pezzi che a mio avviso sono i migliori, come Nuvole Notturne, certo, che poi sono stati frutto di tanto sudore e tante arrabbiature, esatto. Tante discussioni. Sì, ci sono canzoni che hanno 5, 6, 7 versioni. Ah, sì, sì. Però poi avete trovato quella giusta, sicuramente. Ma sì, sì. Sì. Sì. Con un po' di difficoltà, ma è giusto, bisogna avere un po' di difficoltà, se no tutto sembra semplice. Si evolvono sempre. Dimmi. Si evolvono sempre, cambiamo arrangiamenti ogni volta che ci capita l'occasione. Ah, cioè. Quindi siete liberi, avete un certo canovaccio, ma il canovaccio quando suonate dal vivo, stasera è completamente mutato il canovaccio, visto che siamo in sezione quasi acustica, pseudoacustica. Ci siamo presentati tutti, mi pare di no? No. No, c'è allora. Jacopo, il nostro bassista. Il nostro bassista che non è nascosto, si vede sulla telecamera, lo inquadra. Mm-hmm. Chiaramente ha un basso che sappiamo tutti di che marca. Va bene lo stesso, va bene. Poi te? Io sono Domenico, l'altro chitarrista. L'altro chitarrista e il nostro batterista. E Nicolò. Il batterista che non è nascosto, è proprio il batterista, è sempre che dà la visione totale di tutti. La fase ritmica. Dietro le cose si vede. Esatto, la fase ritmica è quella più importante. Il batterista è la fase ritmica fondamentale. Ma via di fase ritmica, sono 22:17. Apriamo la finestra come facciamo di solito a Rock Wave. Presentiamo il primo pezzo da disco che avete scelto. Che traccia avete scelto, ti ricordi? Abbiamo scelto Nuvole Notturne come primo pezzo. La title track, una volta si diceva così, si dice sì, ancora sì. Title track. Beh, sì, si dice. Si dice title track. Guarda, Nuvole Notturne, dai, Nihil Hest. Sfumature fra le crepe intrise di storie, questo fisicamente romantico luogo capace di strapparmi via dal tempo attraverso le sue nuvole notturne di passaggio, bianche ali di falene innamorate di vecchi lumi, mai visto così tanto cosmo sul soffitto, l'autostrada appare una galassia in piena d'aritmia. Alla libellula appena passata chiedo quando vinceremo contro i mulini a caldo umido soffocato. Tracolate di bitume, crudele disincanto. Ombre giganti di polveri sottili aleggiano nell'aria. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, benissimo. Abbiamo presentato la title track, il titolo dell'album. Io voglio capire, Viola, visto che ho qua davanti la Viola, sì, gli effetti che hai fatto con le tastiere, questi giochi elettronici o presunti tali. Sì, beh, io uso, diciamo, diverse tastiere. Io, vabbè, fondamentalmente sono una pianista, per cui... Una tastierista, sei. E, vabbè, uso sintetizzatore, mi piace molto giocare con i suoni, anche crearli a partire da zero, e cerco di trovarli, diciamo che mi ispiro ai testi. Per Nuvole Notturne, ad esempio, queste ombre giganti di polveri sottili, ho cercato di utilizzare dei suoni che in qualche modo ricordassero un po' delle nubi, non so... è difficile spiegarlo. Sì, ho capito, però è quello dei suoni molto visivi, sì. No? Io ho detto, mentre il pezzo andava, mentre il microfono era spento, che era decisamente lirico, perché ci sono sei le aperture, quei sintetizzatori, queste frequenze che fai te, questi giochi elettronici, però non c'è solamente il gioco elettronico, gioco nel senso positivo del termine, ci sono altre cose nel pezzo, le altre cose da dove vengono fuori praticamente. Ma penso che, allora, per Nuvole siamo partiti un po' come al solito da una musica. Da una musica che... Chi la fa la musica? La fa lui. Luca porta. Suona un accordo per la chitarra, o no? Ma Luca, di solito porta delle musiche molto melodiche con la chitarra, e poi iniziamo ad arrangiare, arriva il testo e... Il testo chi lo scrive? Testo io. Ah, io scrivi te. Scrivo... Li ho scritti tutti. Tutti quanti te, praticamente. E niente, siamo partiti da lì e soprattutto partiamo, non so per quale motivo, ma in qualche modo riusciamo a fare le stesse cose senza parlare. Ah, perfetto. Io e Luca. Quindi avete un... Sì, perché questo pezzo in particolare parla del ritorno da un luogo, da un bel luogo ad un luogo grigio, abbastanza monotono, che non dirò perché certo. Non si capisce da dove veniamo. E lui anche nel pezzo musicale che ha fatto pensava quello mentre l'ha fatto, certo, non certo. Ci eravamo visti e non ci eravamo messi d'accordo, quindi capitano un po' così, e questo qui è capitato un po' così, e Nuvole Notturne come titolo al disco stesso, perché un po' tutti i pezzi li abbiamo identificati in queste nuvole notturne di passaggio. A proposito di questo, quando il nostro direttore artistico, che salutiamo, Alberto Prisco, mi ha proposto il vostro disco, ha detto: è un bel disco, prova a sentirlo con molta attenzione. Aveva perfettamente ragione. Un disco da ascoltare, come ho detto prima, da sfogliare attentamente, perché non è un disco semplice, ma non è neanche un disco difficile, ma deve essere catturato, o deve catturare praticamente. Io la vedo, la sento in questa maniera. Il Nuvole Notturne è un pezzo che dà questo senso delle cose. Quindi la title track. Siamo pronti per fare qualcosa adesso dal vivo? Sì. Cosa avete deciso di far suonare? Partiamo da Vicoli Bui. Vicoli, un pezzo meraviglioso che, tra parentesi, è uno dei miei pezzi preferiti. Ok, è un po' così. Eh sì, però è bello in ogni caso. Thank you. bevuto mi sono il resto. Il mio fegato l'ho buttato dove il tuo cuore ho posato. Da quel giorno che sei fermato mi sono perduto e poi sempre spiaggiato. Il tempo m'ha incastrato che ancora mi sento l'intelligenza e l'incoscienza di una piccola balena abbandonata a dismisura, purida. Vivo in un SUV senza ruote, senza bagno, senza freno, mastico aglio in canottiera pure d'inverno tra gli sbandati dimenticati dal padre eterno. Il mio fegato l'ho buttato dove il tuo cuore ho posato. Quel giorno che sei fermato mi sono perduto e poi sempre spiaggiato. Il mio fegato l'ho buttato dove il tuo cuore ho posato. Da quel giorno che sei fermato mi sono viaggiato. Qua. Abbiamo sentito questo pezzo. A me è venuto in mente una cosa mentre il pezzo andava. Tanto sei partito, poi lentamente, progressivamente il suono si è pompato, si è allargato. Un po' decadente, ma nel senso un decadentismo però bello, che affascina. Non so se sei d'accordo. Oddio, sì. Cioè. Musicalmente parlando, parlo musicalmente. Sì. Notturno, proprio nel senso non cupo, buio, assolutamente no. Con qualche spiraglio di luce, però prevalente. La fase un po' meno, con meno luce, secondo sì, me. Sì, sì, sì, sì, è un pezzo. Sì, è un pezzo così, un pezzo abbastanza serale. L'idea com'è nata? Abbiamo già detto prima, però la puoi sviluppare un momentino di più. Allora, questo pezzo penso che sia nato anche lui da una musica, insieme a successivamente a un testo che si ispira ad una persona in particolare che io conosco. E che purtroppo ha buttato la vita nell'alcol dopo la morte della madre. La madre. Cioè, e al finale ho notato questo. C'è quel vezzo. Scusate, psichedelico alla fine, soprattutto la tua batteria che si ferma e poi riprende, riprende, si ferma un'altra volta e poi riprende. E questo tocco leggero sembra non finire mai, assolutamente. Poi chiaramente il chitarrista dà la quadratura del cerchio. È un'idea, sta provando chiaramente il chitarrista, è giusto, tutto live, stiamo provando, c'è poco da fare. Sto accordando perché se dopo dobbiamo suonare sono impreparato. Ah, vabbè, perfetto, è giusto. Quindi siamo... sentirete qualche notina così, quella. Tutto dal vivo, si fa così. No, dicevo che tu hai dato, poi lui ha chiuso il discorso. L'idea di chiudere il discorso così è fatta volutamente per stasera oppure lo fate sempre dal vivo? Diciamo che appunto suonando poi adesso dal vivo stiamo un po' riarrangiando tutti i pezzi in versione acustica e questo diciamo è un po' il pezzo che apre solitamente i nostri praticamente live. La vostra immagine, la vostra finestra, la vostra... Sì, almeno per quanto riguarda i live sì, e anche perché perlomeno crea l'atmosfera giusta poi per l'ascolto degli altri pezzi secondo noi. E abbiamo quindi aggiunto un intro ed un outro, diciamo, un'uscita al pezzo invece registrato del disco. Certamente dobbiamo dire una cosa fondamentale: l'album è stato fatto tutto da voi, assolutamente. C'è l'etichetta di Paolo Messere, l'etichetta, però l'idea è vostra, la produzione artistica è quasi totalmente vostra. Anzi, quasi. Lui... ci avete messo molte idee. Paolo Messere cosa ha fatto praticamente? Ma lui è venuto in. Nello studio mentre registravamo ha praticamente sentito tutto, ha dato il suo parere, e ci siamo ascoltati e qualche cosa l'abbiamo cambiata, su qualche cosa abbiamo discusso, però è andata così. Noi abbiamo portato tutte le idee praticamente finite per noi. Lui ha dato le sue impressioni, soprattutto sul suono in generale. Che altro sento il bisogno di inserire un'altra persona all'interno di questo discorso che è il fonico. È fondamentale questo. Che ha collaborato veramente tanto con noi anche sin dalla demo, dalla prima demo che abbiamo fatto di quattro pezzi, che è William Novati dello Spazio Musica di Pavia. Quindi mi ha dato una mano considerevole praticamente. Sì, sì, sì. Cioè ha manovrato, come si dice, smussato certe cose, le ha sistemate, nel senso positivo del termine. Ok, sono le 22:34. Prima di fare un altro pezzo live, perché abbiamo deciso di fare tanti pezzi live, perché la gente quando fanno i live è positivo, secondo me, sente meglio, scava meglio nella personalità della band. Sentiamo un altro pezzo dal disco che avete scelto, che traccia avete scelto? Abbiamo scelto I Ciliegi. Non sbaglio, benissimo. L'apertura. Saluto un momento la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia che ci seguono sempre, tutte le altre note ascoltatrici affezionate. Sentiamo I Ciliegi allora, ok? Ho riposto ogni sera con cura il rosario nella stola che mamma usava di domenica alla messa ed estate per le more, i bordi dei sentieri di campagna. Le stoppie lontano, la cenere arriva fin qui, al calare del sole dalla finestra, fuoco divampa su poco che resta. Thank you. di come andrei per more se il mio corpo non mi avesse imprigionato. Il tempo passa, il suo incedere arata e la terra in cui affondano lenti i miei passi. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Il conduttore qualche volta scombina un po' tutto e io ho voluto sentire questo arpeggio finale. È bello, interessante, secondo me è positivo. Ok, parliamo di questo pezzo allora, che è molto interessante, come ho detto prima. Lo sviluppo, l'idea come è venuta fuori, abbiamo già parlato, però voglio un allargamento delle idee su questo pezzo. Allora, questo pezzo... Anche lui nasce sempre più o meno nella stessa maniera, ossia che Luca porta una musica, io ci ho fatto su un pezzo diciamo il testo, e questo pezzo è costruito come tema sulla oddio, come si dice, Luca? Come si dice? Cosa vuoi dire? Dimmi. Non so come si dice. Insomma, è venuta a mancare una persona particolare, certo. È importante, e abbiamo voluto raccontare come questa persona viveva e ha vissuto la sua terra in maniera vera. E niente, gli ultimi istanti, diciamo, che portano poi al ricordo di, appunto, che si vede, cioè il ricordo ravvivato dalla visione delle cose dalla finestra stessa, appunto, di un ospedale magari. Certo, ho capito. Quindi un pezzo che ha un certo significato profondo, praticamente. Sì. Non c'entra niente, però posso dire questo, sto dicendo una cosa che forse... C'era un pezzo di Branduardi, si chiama Il Ciliegio stavolta, no? Il Ciliegio era un pezzo folk, praticamente. Qui non c'è il folk, però potrebbe anche esserci il folk sotto sotto, cosa sì. Dici? Sì. Ma in realtà, appunto, ci stiamo avvicinando sempre di più all'acustico, perché nel disco, appunto, ci sono le basi elettroniche. Sì, ci sono. Però testi della viola, tutti la viola. No, le basi elettroniche le fa Vito. Le basi elettroniche le ho fatte io. Però diciamo che ci troviamo bene nel nostro angolino a suonare le chitarrine, fare i raccolti, i toy, i giocattoli non li suonate, voi suonate strumenti. No, beh, in realtà suoniamo anche quelli. Sì, sì. In Vicoli Bui, che abbiamo suonato prima, nella registrazione io uso un toy piano, ad esempio. Sai perché mi viene in mente un gruppo che adesso è diventato molto famoso, ma una volta era sconosciuto, erano Toys Orchestra. Ah, sì, che suonavano gli strumenti giocattolo praticamente all'inizio di carriera. Poi sono stati celebrati, hanno vinto il MAME, mi pare, hanno vinto Arezzo, hanno vinto parecchi premi, sono tanti famosi, però all'inizio suonavano anche loro gli strumenti giocattolo. E non sapevo anche voi perché gli strumenti giocattolo, c'è un motivo, perché il suono è un po' particolare, è un gioco. Ma la musica è un gioco, è sempre un gioco. Sì, beh, ma giocare nel senso positivo, cioè, oggi Luca ha detto la stessa cosa. Le cose senza farla apposta coincidono alcune cose. Infatti, mentre venivamo qui, dicevo a Vito, anche a Viola. Ma poi in realtà a tutti praticamente, un po' tutti, che il vantaggio di fare un lavoro come il musicista, ma poi può essere anche il pittore, piuttosto che comunque un lavoro artistico facciamo così. Diciamo così. È che puoi giocare, no? Esatto. E quindi la mia speranza è arrivare a 40 anni ed essere bambino. Ah, ho capito cosa intendi. E quindi poter continuare a giocare. Vero. Questa è una cosa che mi stimola. Sì. Giocare con le note è una cosa molto positiva. Sì, continuare a giocare. Ma non è, cioè, musicalmente però avete determinate aperture. Sì, abbiamo parlato del pseudo decadente, però abbiamo parlato della psichedelia, il metal psichedelico. C'ha qualche aggancio, non c'è il metal qua, però il psichedelico c'ha qualche aggancio, perché metal. Tu sei partito da quello. E poi l'hai sviluppato in questa band, no, il metal è scomparso, la psichedelia bene o male quella rimane sempre, sì, perché comunque c'è un'apertura a qualsiasi suono, a qualsiasi dimensione del suono, che poi penso sia più o meno la base della psichedelia, nel certo. senso un'apertura. Un'apertura, sì. La tendenza vostra del disco, secondo me, è positiva, è quella di avvolgere in alcuni momenti, di avvolgere, cioè questa è la chiave di volta, la tendenza. Non dico in tutti i pezzi, però a questa idea, secondo me, si sposa bene. Non so se siete d'accordo. Sì, beh, diciamo che l'intenzione principale è quella di comunque di esprimere degli stati d'animo, dei pensieri, dei momenti, degli stati emotivi, per cui anche da questo credo derivi l'apertura a più o meno tutte le sonorità. Certo, certo. Nel senso che le nostre scelte musicali sono finalizzate comunque all'espressione. Certo. Può sembrare banale, però credo sia un punto chiave. Una cosa devo chiedere, avete già spiegato prima, però potremmo anche ampliarlo. Possiamo definirlo questo disco, non so, forse è male dire così, un greatest hits, non è giusto, ma possiamo definirlo il meglio delle cose che avete studiato nel corso del tempo, che avete sviluppato? No, non proprio. No, io credo fosse più una fotografia di quei mesi. Cioè non avete lasciato delle cose, avete lasciato nel cassetto che non andavano, che sono pronte, che secondo voi all'ultimo momento no, non vanno bene. È una fotografia di quei mesi, ma il meglio che abbiamo fatto, sì, certo, fino ad ora. Questo è un po' il... Un po' tirato una riga, diciamo, come la somma di tutto quello a cui siamo arrivati fino adesso. Quindi è stato anche difficile, abbiamo detto già prima, però possiamo ribadire che è stato un po' difficile scegliere i pezzi praticamente. Sì, alcuni perché, sono stati fatti anche, sì, mi avevi detto, quasi in studio. Mi avevi detto che qualche volta avete fatto 5, 6, 7, 7, 7, 8 volte lo stesso pezzo, perché non eravate soddisfatti, perché c'era qualcosa che non funzionava. Sì, ma noi siamo proprio meticolosi, molto meticolosi nelle arrangiamenti. Bene, sì. Ma è cosa positiva. Cioè, per fare uscire un disco ci vuole anzitutto una forza di volontà, tanti altri fattori, casa discografica o etichetta, eccetera, eccetera. Insomma, mica tanto, insomma, ci vuole qualcosa, ecco, perché adesso i dischi si possono fare anche a casa, come voi tutti sapete, però ci vuole anche quello. 22:46, adesso ci vuole da suonare un altro pezzo, cosa dite? Sì. Cosa fate? Suoniamo il fuoco. Il fuoco, benissimo. Controllo un attimo l'accordatura. Sì, fai l'accordatura. Me l'hai fatta cambiare. Sì, lo so, sono stato io, sono sempre io e faccio questo. L'accordatura è bello così, è tutto dal vivo. Thank you. danzate in campagna, festeggiate da un violino e tamburelli. La musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là, la musica è là. Sepolta dorme in un campo alle ortiche, svenduta ingannata da mercante di visioni e nevote. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sento il basso. Ok, ci siamo? C'è qualche problema? No, assolutamente. Ok, e posso dire una cosa? Sì. A me è sembrata quasi progressive sto pezzo. Molto progressive, non so. Io il volume dell'organo era molto più alto. Ma è veramente interessante, decisamente interessante. E anche a me interessa, anche positiva l'effetto, vi siete quasi fermati di botto e poi avete ripreso. E quindi quello è progressive al 100%. Perché tu all'inizio sembravi battessi al modo africano, quasi africano, poi chiaramente ma lui è un percussionista. No, io l'ho sentito africano, può darsi che anche sudamericano, per carità, io l'ho sentito africano, proprio hai dato molto vigore, poi ti sei fatto trasportare dagli altri. Il nostro chitarrista ha giocato bello, ricordiamo che lui usa una chitarra acustica, non è elettrica questa qua, e ha giocato, ha fatto tutti i risvolti, i contorni, e poi queste due ottime voci, quindi molto molto west coastiane queste due voci. Vi sposavate in questo modo musicalmente parlando, e poi lentamente siete dati al progressive. C'è qualcosa di male, Assolutamente no. Ma a noi piace il progressive, eh? È stata una vera e propria jam session questa qua. Ci abbiamo passato mesi, anni sul progressive. È stata una jam session totale. La vivo, dal vivo, cioè, questo siamo in acustico qua dentro, la fate dal vivo così. La facciamo così, sì. Ma con dei... abbiamo il sax, abbiamo Federico. Il sax cosa Federico De Zottis, tendo a sottolineare il suo nome perché per noi è molto importante. Ciao Dezzo. Salutiamo, ciao Dezzo. Lo salutiamo. Sì, sì. C'è lui che è grintosissimo. E poi comunque c'è la chitarra distorta, abbiamo degli effetti, abbiamo anche... più tastiere, insomma, c'è un altro mood. Adesso magari siamo stati un po' più tranquillini. Mettiamola così. Ma questo mood di questi 4-5 minuti, penso di più, 5 minuti, penso è abbastanza lungo. Si vedeva che avete la possibilità di spaccare, ma molto. Infatti, ieri sera abbiamo suonato alla Casa 139, no? Che a Milano. Sì. Generalmente io penso. Aspetta, meglio mettere le sedie, perché magari sai, la gente. Ieri sera, quando abbiamo finito di suonare, è arrivata la gente e fa: no, però dovete togliere le sedie. No, ma perché io avevo voglia di muovermi. Questo è un complimento. Certo, non me l'aspettavo, invece. È un grosso complimento questo, veramente. La volontà di muoversi vuol dire che avete dato ritmo, avete dato feeling alla gente. Questo era un pezzo, ripeto, molto bello. Mi ha suscitato, io ho una certa età chiaramente, mi ha suscitato certi amori che sono sempre presenti nel mio modo di sentire la musica. Sono 22:53, mi pare che ci sia ancora un pezzo da disco, mi pare, sbaglio? Sì, sì, c'è Eco. Eco, sì. Sì, la traccia numero 6 mi pare. La 6, sì. Se non sbaglio. La 6, esattamente, adesso lo sentiamo. Sì. E poi parliamo di una cosetta che arriverà verso le 23. No. Fragile. Libero. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok. Un minuto di differenza dalle 23, ma possiamo fare lo stesso giochetto. Parliamo un momento del pezzo e dopo giochiamo alle 23 con i tre dischi da portare su un'isola deserta. Siete tanti voi, quindi abbiamo deciso di rimpicciolire. Di solito sarebbero 5. Ma ci andiamo tutti insieme sull'isola deserta? Dipende. No, perché se un po' di dischi ne abbiamo insieme. Una volta si usavano i dischi, adesso c'è il CD che è freddo, non ha l'anima. No, ma noi, nonostante non abbiamo vissuto l'epoca del disco, del vinile. Siamo anche molto affezionati al vinile. Bene, il vinile è una cosa molto positiva, secondo me. Mm. Sta ritornando lentamente. Ma un momento, un minuto per parlare del pezzo, però, che è molto positivo. Allora, Echo, dicevamo, è un pezzo che viene dalla demo, era nella demo e in inglese, però. Mm. Una volta abbandonato l'inglese, l'ho praticamente tradotto, almeno a livello di tema. Sì. Ed è una canzone d'amore. Si può dire tranquillamente. Una cosa, mentre il pezzo andava, stavamo parlando. Aveva un inizio e una prima fase, e poi c'è lo sviluppo. Assicurò, se tu hai detto, lo sviluppo proprio senza paletti, libero, completamente libero, perché deve essere così. Sì, e anche perché poi nel pezzo l'ultima frase, folle danzo libero. E bisognava danzare liberi, certo, è proprio sintomatico di questo. Visto che siamo in piena libertà, e sono 22:59 e adesso giochiamo. Facciamo il giochetto: i tre dischi da portare su un'isola deserta. Chi comincia? Dai, inizio io, via. Inizi te, vai allora. È sempre difficilissimo. Sì, è difficilissimo, però ce ne sono tanti in giro. Sì, perché poi se ti rimangono quei tre, perché fai? Devi riascoltare sempre, no? Ripetizione. Okay. Dopo un po', magari ti stanchi. Vabbè, comunque, in ogni caso, insieme. Cioè, ci andiamo tutti insieme. Se tutti insieme deserta, ne abbiamo un po' comunque. Vabbè, allora, OK Computer dei Radiohead. Ma come mai OK Computer? Perché no? Io quando l'ho ascoltato, OK Computer. New York è un grandissimo musicista. Appunto. Un genio. un genio. Perché, tra l'altro, io ho ascoltato come primo disco dei Radiohead, ho ascoltato Hail to the Thief. Mm. Ho detto, è davvero interessante, no? Però non mi aveva preso così tanto. Ho ascoltato OK Computer su consiglio di Vito e di un collega di lavoro. E io quando ho ascoltato OK Computer non ho più capito nulla. Ti ha aperto un mondo. Mi ha aperto due mondi. Due mondi. Cioè, due mondi. E quindi mi sono innamorato di quel gruppo e di tutti i dischi che hanno fatto. Vabbè, magari non. Il primo, insomma. Però vabbè. Anche Vasco si è innamorato di un pezzo. Vabbè, lasciamo perdere. No comment. No comment. Parliamo di belle cose, di bei okay. gruppi, di bravi artisti, di bravi musicisti. Vasco è un grande, però. Sì, non è che sia. Poi, che abbia. Forse ha toppato su questo pezzo. Dei Radiohead. Beh, ok, secondo ecco. disco. Eccola. Eccola. È bravo, Michele ha messo su. È bravissimo. Sì. Comunque, ok Computer. Sto ascoltando nel frattempo. David Bowie. Cosa? Ziggy Stardust. Bello. È fantastico. L'ho ascoltato milioni di volte per mesi, mesi. È un disco che ha fatto epoca. Assolutamente sì. Che epoca. Diceva Stardust Bono, Ziggy Stardust. Sì, okay. Diceva Bono in un'intervista di alcuni anni fa a Rolling Stones che lui deve sempre avere il quadro di Bowie dentro casa. Perché Bowie ha fatto tante cose. Ziggy Stardust ha aperto tante vie, tanti orizzonti musicalmente parlando. Poi assolutamente. Una band allucinante. Ma ha sempre avuto band di tutto rispetto, di grande rispetto. Ok. E quindi niente. E poi ecco qui sono in realtà dicevo, certo. Perché devo introdurre il mio uno dei dischi italiani poi che mi piace, ce ne sono parecchi. Anche qui, vabbè, Umberto Bindi, Io e il mare è un disco che io adoro per le atmosfere, per l'intimità, per l'introspezione, per la ricercatezza, per la raffinatezza, la sinfonicità di quel disco che è raro. Dobbiamo sottolineare una cosa, che se è nato il vocabolo cantautore, è nato perché c'è stato lui, è stato il primo in assoluto cantautore. Però visto che devo andare sull'isola deserta e ho già detto Io e il mare, ero anche indeciso su come è profondo il mare di Lucio Dalla. Quindi volevo dirlo. Il mare c'è sempre anche sull'isola deserta. Quindi perfetto. Ho detto mettiamoli tutti e due. Benissimo, ok. Tocca adesso, cosa avete deciso? Vai, Viola. Viola. Ok, beh, io sono... dire che sono fan di Battiato è poco, nel senso che per me è veramente un maestro. Ma Battiato ultimo, Battiato di mezzo, il Battiato... Battiato in toto. Battiato in toto. E tu hai scelto che disco di Battiato? La voce del padrone. Il disco da 1 milione di copie, ma non è il 1 milione di copie. È un disco bello, bello tutto quanto. È un disco che a me cambia l'umore, cambia proprio il mio stato psicofisico quando lo ascolto, proprio in qualsiasi momento io sia, la voce del padrone, devo dire, mi ha salvato in diversi momenti. Lui che è passato da Stockhausen alla voce del padrone, è una cosa che solo lui poteva fare, una cosa. Stockhausen, premio Stockhausen, quindi una cosa, non dico inascoltabile, ma quasi, quando faceva Messiele Gladiatore, quindi due facciate di un suono, la facciata A, l'altro suono la facciata B, però è arrivato alla voce del padrone, praticamente. Sì. Poi lo sentiamo, lo senti? Sì. Poi vabbè, io penso che, volendo parlare di grandi classici, The Dark Side of the Moon sia, non possa mancare, ma quello rimane sempre. Io chiedo sempre a chi viene qua, perché io sono un fan sempre di Pink, però di un altro disco. Io amo particolarmente Atom Heart Mother. Quello perché è un disco, quello della mucca, la famosa mucca. Eppure atomica. Non ha, cioè, nel senso, non ha riscosso. Perché loro hanno detto che loro è un brutto disco. Cioè, non lo tra l'altro, neanche loro. Non lo amano. Si fa a non amare If? Come si fa a non amare If? 4 minuti di celestiale armonia. Scusami, vedo 60 milioni di copie. E quanti anni nei classifici di Billboard americano? Una vita. The Dark Side, epocale. Poi? Sì, no, è un album, è un disco veramente senza tempo, cioè un disco che parla di proprio dell'assoluto, secondo me. Certo, certo. E poi direi, a me piace molto Satie, Erik Satie, per cui diciamo una raccolta di Satie, in particolare le Gimnopedie, a me piacciono molto. Anche, ero indecisa anche su un altro disco che mi porterei dietro, sarebbe Chelsea Girl di Nico. Adesso però, dobbiamo alzarci un secondo per proprio... dire una cosa su Nico. Cosa possiamo dire su Nico? I Velvet, no. Cosa possiamo dire? Sunday Morning. Possiamo dire il primo disco di Velvet con Nico, la musa, l'icona per loro. Nico è stata straordinaria. Infatti, no. Straordinaria. Se potessi fare uno strappino alla regola, ne porterei 4. Vada per Nico. Tutti lo strappino. Per Nico si può fare lo strappino. Nico era una musicista straordinaria. Però era una musa, era una che ha descritto in un disco solo, il famoso disco di esordio, determinate cose solo lei poteva fare. Sì. Poi è stata musa anche di Jackson Brown, Nico, tra l'altro. Vai, tocca a te. Allora, io mi porto Pink Moon di Nick Drake. Ecco, un altro disco che io ho sempre amato, che è un disco favoloso, è difficilissimo da eseguire, perché le cordature di Nick Drake sono molto complesse, anche se sembrano semplici, non sono affatto semplici. Ma perché secondo te, Vito mi pare, no? Sì. Cresce negli anni, mi è sempre più amato questo disco favoloso, che è il terzo e ultimo disco di Nick Drake. Guarda, secondo me perché è una mezz'oretta di pace, ecco, sì, ma non solo, cioè nel senso è sulla linea di confine fra la pace e il baratro. È il baratro, hai detto la cosa giusta, disperazione, potrei dire. E anche l'idea che lui sia entrato in studio e davanti a un microfono si è messo a fare in una mezz'ora, perché poi lui l'ha fatto in una session, certo, praticamente, esatto. E ha aggiunto soltanto un pianoforte. Vero. A quel disco, e lo rende geniale, cioè. È vero, bellissimo, bellissimo. Sono perfettamente d'accordo con te. Poi? E allora, dopo Nick Drake, mi porto una raccolta di Luigi Tenco. Sì, giustamente a microfono spenti abbiamo detto, ma che disco ha fatto Luigi Tenco? Ha fatto tante raccolte, sì. Una volta si usavano a fare i singoli, sì, lo sai che Tenco ha scritto Yeah, dei Mal, dei Primitive, se lo sapevi, no? Ah no, questo no. E il testo è di Luigi Tenco, perché una volta, c'è un motivo. Alla RCA, l'etichetta RCA, c'erano tutti i musicisti emergenti, i giovani musicisti. Cosa facevano? Lo stesso Morricone arrangiava tutti i musicisti della RCA. E i giovani emergenti lavoravano scrivendo i pezzi. Ma di primi, l'ha scritto Luigi Tenco. C'è scritto proprio Tenco tra gli autori. Ma chiusa la parentesi, andiamo avanti. Quindi Tenco di tutto quello che vuoi di Tenco. Tenco tutto, nel senso mi piace, ho riscoperto recentemente anche... per esempio una canzone come Giornali Femminili, sì, che fa riderissimo, almeno a me fa riderissimo, ed è un lato diverso da, sì, solito, dal solito che conosciamo. Poi cosa avevamo detto? Ah, poi mi porto Low, sempre di David Bowie. Disco, il terzo disco berlinese, Low. Sì, perché berlinese, cioè abbiamo berlinese, sappiamo perché questo disco oscuro, abbastanza oscuro, prodotto, ma perché ha due facce, perché insieme con lui, perché ha fondamentalmente due facce ben distinte, perché una seconda è molto più cupa, la prima, sì, a livello sonoro è molto meno, cioè molto, è meno cupa, è molto più ritmata sicuramente. E anche quello lì è un disco che, soprattutto magari nella seconda parte, apre diversi mondi, con quei giochi che solo le strategie oblique di Brian Eno potevano fare. Certo. È fantastico. La coppiata Eno Bowie ha fatto tre. Eno Bowie Fripp. Cioè l'intelligenza, come si dice, musicale, inglese, c'era tutto là. Abbiamo finito con Vito, il nostro ben amato batterista, che è qua. Fermo a tre. Allora, io porterei... Nicola, mi pare tu chiami. Io porterei, vabbè, per non ripetere Ok Computer, ma per citare comunque Radiohead, Kid Day è un disco leggermente diverso da Ok Computer. Già cominciava a sperimentare. Già cominciavano a sperimentare. Poi sono andati un po' più avanti, poi sono ritornati indietro con l'ultimo, quello è stato scaricato, preso un totale da internet. Poi porterei a Gettysburg dei Sigur Rós. Ecco, un altro nostro amore musicale, possiamo con tutti quanti. Sì, sì, credo c'è, sì, un'unione totale su questo. Poi sono un po', certo, in difficoltà, così, nel senso che per come sono, ecco, per come sono io, nel senso che a me piace strimpellare, credo sia la parola giusta, al pianoforte. Cioè, nel senso che non ne so. Sei un one man band anche te? No, non sei one man band. Sono peggio, half man band. Ma probabilmente anche per, visto, cioè mio padre ascolta solo musica classica, non è mai andato al di là di questo. Al di là di questo. E quindi porterei forse i notturni di Chopin. Una scelta eccellente. Però mi sa che nasconderei Grace di Jeff Buckley. Un'altra scelta eccellente. Giusto. Uno solo, ma mitico. Uno solo. Tutte le altre sono state uno solo, anche un disco. Uno purtroppo, solo uno. Poi sono stati stampati altre cose, ma sono tutte cose fuori di quello che aveva fatto lui. Grace è un disco mitico. Jeff Buckley è mitico. Non c'è poco da fare. Meglio così. Ne ha fatto uno, però rimarrà sempre. Anche suo padre ne ha fatto più di uno. Aveva una voce strepitosa, un modo di cantare strepitoso, un modo di arrangiare, di costruire molto al di là, molto avanti. Due geni, purtroppo. Uno se n'è andato nel Mississippi e un altro se n'è andato in un'altra maniera. Tocca a te. Ma io devo dire che non posso non citare la mia passione morbosa per De André. Quale di De André? Un disco non mi basterebbe, quindi mi brucio due. Non ha fatto nessun doppio De André, oltre quelli dal vivo, ma quelli lasciamo perdere. I dischi che ho consumato di più sono stati Non al denaro, non l'amore nel cielo e Anime Salve, che sono due dischi di due periodi diversi. Che sì, due periodi diversi. L'ultimo Anime Salve, l'ultimo periodo è Non al denaro, nel cielo, che è il disco di Spoon River praticamente. L'antologia di Spoon River, Girly Master, che è stato un po' il mio approccio al concept album. Diciamo hai ragione. Hai perfettamente ragione, è un concept album. Disco che all'epoca in Italia non si facevano i concept album. De André ne ha fatto più di uno: Buona Novella, Storia di un impiegato. E non sì, sì, De André è stato un po' il fattore di questo tipo di approccio tra musica e racconto. Quindi De André, assolutamente. Assolutamente. E poi per spezzare, direi, tornando ai Velvet Underground, Velvet Underground e Nico, quello con la banana. Quella famosa banana scritta, disegnata da Andy Warhol. Per pezzi come Sunday Morning, Nico, c'è tutto in Sunday Morning, c'è lei. È una voce un po' maschile, però, francamente, in alcuni momenti. Sì, però era lei. E Sunday Morning, quel disco è favoloso. Poi l'MGM, l'etichetta all'MGM, vi ricordate? È una cosa favolosa. Sei pronto anche te? Certo. Bene, ti avvicini al microfono, ancora meglio. Allora, dimmi. Per quanto mi riguarda, io penso di aver iniziato a suonare il basso ascoltando. Io sono di altra scuola. Ah, perfetto. Ascoltando i Red Hot Chili Peppers. Ah, quale dei Red Hot Chili Peppers? Allora, il primo che ho ascoltato in assoluto è quello penso più famoso, Californication. Quello l'ho sentito milioni di volte, se, per anch'io, modo di dire, ma tante volte, tantissime volte. Perché era un Red Hot Chili Peppers un po' diverso, secondo me. Sì, molto, molto californiano, cioè, bellissimo, californiano, anche se non è propriamente così, però avevano tante belle chitarre su quel disco, erano tanto bravi e tanti milioni di copie, al di là di quello. Poi penso, guarda, lei me l'ha rubata. Purtroppo sì. Però io ti giuro, in questo periodo lo sto ascoltando ogni giorno. Non è un disco semplice Kid Day, eh. Ma a me i suoni mi piacciono veramente. E se escludiamo Kid Day, che sai le regole ferre di questo programma, non si può copiare. Allora scelgo Amnesia. Amnesia. Sempre, sempre su quello. Non è, è già un po' più sperimentale Kid Day. Si vede un po' la passione per i Radiohead. È totale voi. Così Tom York. Ce li scambiamo sull'isola. Perfetto. Con bel e CD. Poi per uscire un po' dagli schemi, Tool. Qua 10,000 Days. Qua è un discorso un po' complesso. Tool è un gruppo molto particolare. Come mai hai scelto Tool? Che hanno un grande pubblico in Italia. Sono molto amati. Li ascoltavo un po' di tempo fa. Poi i pezzi di basso mi sono sempre piaciuti. Io parlo sempre per quanto riguarda il mio strumento. E non hai citato Jacopo Astorius? Jacopo Astorius penso sia... è il massimo di tutti. Esatto. Pensavo citassi un disco di Jacopo Astorius. Ma... no. Proprio se mi... cioè, ho capito. Dovessi portare in un'isola deserta, sceglierei questi tre. Perfetto. Andiamo al nostro grande chitarrista qui per davanti. Hai già detto te? Io ho già detto. Perfetto. Hai già detto, quindi siamo a posto. Già te ne volevi portare quattro. Esatto, lui hai già provato. Detto. Provato. Ma lui, sai, voleva fare lo stesso. Io ho buttato l'amo, però. Sono 23:14, adesso siamo pronti per suonare. Siete pronti? Adrian. Sì. Cosa suonate adesso? Facciamo Adrian. Adrian, benissimo. Gelida intorno alla città, neve lieve cade e resta a guardare. Si grattano la schiena sull'asfalto, piccolo e il suo cane alzando polvere giù di zia chi sputa dal balcone, girando alle baracche. Nevica, fiocchi sulla lingua si sciolgono velocemente, al contrario delle male lingue della gente. Scacciata senza pensare, lacre odore di benzina, i suoi riflessi colorati, e Adrian senza guardare sogna un prato e corre sull'asfalto tra urla di bambini inferociti in tutto uguali a lui, innocenza deturpata tra piscio e cemento. Le trucchi sulla lingua si sciolgono velocemente. Al contrario delle male lingue della gente. Bruciano le tende, le baracche, la civiltà nel fumo scappa via disorientata. Insieme ad Adrian segue il vento, si forma l'ideale con il viaggio. Nevica, i fiocchi sulle lingue si sciolgono velocemente. Al contrario delle male lingue della gente. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Che bello questo pezzo, l'ho sentito decine di volte visto che era il pezzo che abbiamo presentato. La band nei nostri programmi. Era molto molto bello, poi un grande testo secondo me. Grazie. Un testo molto interessante, molto significativo. Dà un certo fascino un po' particolare, non dico oscuro, però lievemente melodico, non proprio melodico, lievemente melodico, ti lascia dondolare. È un pezzo molto importante. Difatti, quando abbiamo sentito il disco con Alberto, mi sono subito fermato a questo pezzo qua. C'è niente da fare. Posso avere anche io i miei gusti, no? Ma certo, mi sono subito fermato in questo pezzo. L'idea, come lo fate? Qua l'avete fatto abbastanza sussurrato, anche se il batterista qualche volta tentava di esplorare altre guarda vie. Che batteria che c'ha, c'ha, sì. C'ha la Zep 7. Sì. Non è messo, ma non è proprio piccolissima, insomma, sì. No, anzi, è bella, bella tirata per quello. E le cose sono state fatte bene, però. Un pezzo molto significativo. Come lo fate dal vivo? Adesso lo fate così qua dentro, ma lo tirate di più o deve essere così semplice, velutato, accattivante? Deve essere così fino a un certo punto. Mm. Perché è una storia che parte da fatti veri. Adesso non mi ricordo effettivamente come l'hai. Mi pare che quando è successo che hanno dato fuoco al campo, sì. A un campo rom, sì. Nei pressi di Napoli, se non sbaglio. E vedendo quelle scene era un periodo totalmente diverso poi quando io l'ho scritto, infatti poi anche il periodo, il fatto è successo in un altro periodo, non era freddo, ho spostato la il neve. Luogo, ci ho messo anche la neve e poi alla fine c'è una citazione di André soprattutto su quel che riguarda il viaggio, la ragione del viaggio che è il viaggio stesso. E mi è piaciuto molto perché penso che sia un po' una faccia di un popolo che si muove e vuole muoversi e va bene e così. Ci stava bene questo pezzo qua, decisamente. Un recensore ha scritto sui contrasti della bianca, della candida neve con il lerciume del cemento, ed è vero. Quel pezzo in particolare poi sì. È preso da De Andrea. Sono d'accordo, però è preso da lì. Ma sai, i pezzi, cioè gli input ci sono sempre, basta poi svilupparli a piacimento vostro, chiaramente. Gli input è giusto che sia così. Un maestro si deve sempre citare. Niente, cioè, non è che non creiamo niente. Assolutamente da, no. Assolutamente. Dal nulla. Assolutamente. 23:23:06 minuti primi. Avete qualche, parliamo delle prospettive, avete qualche locale, qualche idea di qualche data adesso oppure no? No, non c'è, c'è. Suoneremo ieri sera hai suonato ieri sera abbiamo suonato alla Casa 139, che è un grande locale importante. Sì, 9 gennaio, abbiamo suonato qualche settimana fa, abbiamo suonato al Magnolia a Milano. E poi suoneremo il 9 gennaio alla Locomotiva di Vimercate. Quindi sempre intorno a Milano praticamente. Sì, per il momento. Per il momento. Poi abbiamo il 18 febbraio, se non erro, il 18, a Parma, come materia off. E poi abbiamo il 24 all'Arci Acropolis, sempre a Milano, Vimercate comunque. Avete un vostro sito, sì? Sì, sì, sì. Come? Beh, sì, abbiamo MySpace. MySpace. Il disco, se uno vuole recepire il disco, come fa praticamente? Allora, c'è MySpace, che è myspace.com, Nihilist Music, e da lì penso ci siano i link. Per o comprarlo direttamente su internet dal sito di Audioglobe, che è il nostro distributore, certo. Oppure comprarlo su iTunes, poi basta scriverci, lo mandiamo. Certo, non è che sì. Siamo, visto, facciamo una cosa, visto che ho saputo che la copertina del libretto è stato fatto dal nostro ben amato batterista. Il nostro ben amato batterista, nonché Nicolò, si avvicina al microfono e praticamente spiega come l'hai fatto sto libretto. Diciamo che l'idea della copertina è nata un po' dal caso, un po' dall'intenzione di fare. È stato un po' un parto, tra virgolette, ed è uscita una bambina. Sì. E per poter descrivere un po' il nostro mondo, diciamo, musicale, ho inserito all'interno del profilo della bambina tutto ciò che un po' poteva descriverci a livello visivo, cioè quindi qualcosa che vola, quindi dei posti, degli spazi aperti, degli ambienti, delle atmosfere, insomma, diciamo, molto aperte, molto libere. In Adria mi pare che ci sia anche la fisarmonica francese di Emiliano Bianchi. Sì, era il mio professore di greco del liceo. Come mai sei riuscita Perché è una splendida persona che mi ha insegnato molto al di là del greco, che, per il quale io avevo una personale avversione al liceo. Perfetto. Adesso mi interessa molto di più, paradossalmente. Però siamo rimasti in contatto perché lui è piuttosto giovane. E ha sempre avuto questa passione, insomma, ha sempre dimostrato anche quando insegnava a me questa passione per la musica, e quindi niente, quindi avevamo l'esigenza di registrare una fisarmonica e ho francese lui. Soprattutto questo. No, avete deciso, cioè, lui è venuto ben volentieri, sì, e avete inserito nel pezzo, che andava benissimo, era il pandam giusto, ci doveva essere, sì, una fisarmonica, sì, esatto, sì, sì. Quindi fisarmonica francese, ma di francese può darsi che Adrian abbia qualche risvolto anche in francese sotto sotto, ma cosa dici? Musicalmente, parlo musicalmente, anche se non sembra, però sai, la fisarmonica potrebbe andare, potrebbe percorrere le sue strade, che può darsi che siano le nuove strade della band, chi lo sa? Non lo so, guarda, non lo so, il discorso per cui abbiamo inserito la fisarmonica è stato sempre quello che diceva un po' prima, sì, Viola. Dell'ambiente, certo. Di creare un ambiente adatto alla canzone. Cioè, ci stava creare l'ambiente della canzone per cui potesse svilupparsi al meglio. Anche per accostamento comunque col testo. Sì, certamente. Sì, esattamente. Un po' zicano francese, un po' zicano, un po' libero francese in quel senso là. Sì, zicano, tra l'altro, insomma. Esatto, il francese Emiliano Bianchi suona la fisarmonica in un gruppo, ecco, si chiamano Babuzzi Orchestra. E appunto ho già sentito questo gruppo qua. Sono molto, molto, molto, molto bravi. Quindi c'è un po' di world music. Fanno musica balcanica. Ecco, quindi siamo arrivati lentamente, ci siamo avvicinati, sì, al punto focale del discorso. Esatto. 23:27, ma il punto focale. No, bisogna suonare, quello è il punto focale del discorso. C'è poco da fare. Cosa suoniamo adesso? Cosa che non abbiamo suonato? Ciliegie, non è ecco. Ciliegie dobbiamo fare. Nuvole. Nuvole. Nuvole, facciamo nuvole. parte la mia mente si ostina a cavalcare fra le sfumature, fra le crepe intrise di storie, questo fisicamente romantico luogo capace di strapparmi via dal tempo attraverso le sue nuvole notturne di passaggio, bianche ali di falene innamorate di vecchi lumi mai visto così. Tanto cosmo sul soffitto, l'autostrada appare una galassia in piena crisi d'aritmia. Alla libellula appena passata chiedo quando vinceremo contro i mulini a caldo umido soffocanti, riflussi d'ansia del ritorno tra colate di bitume, crudele disincanto. Ombre giganti di polveri sottili aleggiano nell'aria. Anche questo era un pezzo molto movimentato nel senso positivo del termine, bello, quasi, non dico, da danzare, fa muovere la gente, cosa dite? Sì, sì, questo è il batterista più... di Colosso, è dato da fare adesso. È un percussionista. È un percussionista, ha preso proprio di botto il Sì, ma lui si deve fare un tempo semplice. Ma lui è un batterista, è sudamericano, non sì, è Brianzolo. È sudamericano. Cioè... Esattamente. C'è sempre Agostino a fare le fotografie, il nostro fotografo ufficiale, per stasera, solo per stasera. Ok, un critico ha scritto una cosa, non so se siete d'accordo. Dunque, un concimato musicale concimato da Bruno Lauzi e Robert Wyatt. A me piace molto, mi dispone molto Robert Wyatt. Bruno Lauzi può darsi sia vero, ma anche Robert Wyatt. Avete qualche parentela con Terburi voi oppure no? Beh, può darsi di sì. Io ripeto... Tu mi sa di no. No, nessuna parentela con Canterbury. No, lei sì. Lei sì, Viola sì. In senso... infatti no, non ho capito. No, cioè, nel senso musicale. No, beh, sì, cioè io l'ho detto anche prima, sì. Per quanto riguarda il progresso. Sì, ma però Canterbury è un po' alto... Sì, progresso sì, fino a un certo punto secondo me c'è più quella fase jazzistica o jazzata. Ti ricordi Soft Machine, famoso album con quattro facciate diverse? Uno era di Robert Wyatt, io non che ho... una volta suonava le tastiere. c'è una batteria, scusate, dopo purtroppo con l'incidente è dovuto suonare il tastino. Io per quanto riguarda i Soft Machine ho ascoltato il disco dopo dopo la recensione. Esattamente. Io ammetto che non mi ci sono ritrovato. Di Robert Wyatt? No, assolutamente no. Però se Robert Wyatt è riferito poi al prog, sì, al prog o queste cose che tu hai chiamato jazz o comunque alle ritmiche, sì, piuttosto che al fare, poi tra l'altro questa qui è la recensione del demo, che forse era più... È un po' collegata al discorso di Robert Wyatt. Sì, quindi anche a livello di strutture eravamo molto... Però qualcuno ha parlato anche di Toon. Io sono d'accordo. Di questo gruppo qua, i Tang fanno musica pseudo folk, questo è vero, assolutamente. I ciliegi, non so se si avvicina, lui, il critico ha citato i ciliegi parlando di questo gruppo qua, ed è vero il discorso del folk. Il folk però non un folk normale, un folk un po' costruito, un po' diverso, con tante variazioni, come che fate voi? Sì, quello che chiamano adesso folktronica. Esatto, proprio quello. Oriented folk, anche quello potremmo chiamarlo. Ma così. Guarda, il tentativo, ma non è mica niente di male. Non, sì, no, ma il fatto è che noi non ci siamo messi a cercare in particolare, almeno per esempio per i ciliegi non ci siamo messi a cercare uno. Esatto. No, diciamo che comunque almeno in quel periodo in particolare del disco eravamo molto presi dall'elettronica, un certo tipo di elettronica, come per esempio può essere quella di Kid A, certo, o di... che ne so, degli Otecre, questi gruppi, sì, che fanno dell'elettronica un po' più di ambiente, e un folk inteso come diretto, cioè qualcosa, capito, di diretto subito con una chitarra di emotivo. Certo, capito. Sì, cioè quindi il demo, che passo c'è stato rispetto al demo? Il demo erano 4 pezzi, 5 pezzi. Rispetto al disco, avete recepito delle cose del demo, come abbiamo detto, le avete sviluppate, come avete detto prima, ma come le avete sviluppate? Le avete allargate o avete conservato le cose più positive che c'erano sul demo? Abbiamo conservato, diciamo, l'idea appunto di spaziare tra libertà, i vari di, totale, esatto, di non libertà. Dico totale, ma libertà sì. Però ci siamo anche forse limitati di più rispetto al demo, perché al tempo del demo abbiamo, diciamo, lì più di, come si diceva prima, abbiamo raccolto quello che avevamo e l'abbiamo messo soprattutto per mostrare le facce, le varie facce, no? E dal demo è cambiato tutto nei testi, perché scrivere in italiano è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, tutta un'altra cosa, ben più difficile probabilmente, sì, assolutamente. E non so se ve l'ho già detto, non mi pare. Quante volte è stato buona la prima, quando eravate in studio di registrazione? Mai o sempre? O qualche volta? Ma non, in realtà dipende. Dipende dagli umori. No, non siamo andati male. No, non parlo mica di questo punto di vista. Anche dal punto di vista del tempo, praticamente. Il tempo... Quello che è. No, perché di solito quando si va in studio di registrazione ci sono dei tempi prestabiliti. Sì. Se no scade o scatta, quello che sappiamo dal punto di vista del monetario, sì, esatto, c'è poco tempo. Ne abbiamo dedicato un mese. Esatto, a questo disco. Sì. E qua, Messere vi ha favorito, vi ha dato una mano in quel senso là praticamente. Durante la registrazione. Lui è venuto... Un critico ha scritto ha allentato l'arrangiamento con le sue maniere, nel senso positivo, ha allentato. Ma è arrivato... diciamo a registrazione finita. Okay. Beh, c'è da dire che comunque mentre preparavamo i pezzi li registravamo in sala per conto nostro e glieli mandavamo, per cui c'è stata una collaborazione a distanza. Okay, e lui ci diceva le sue impressioni e... Ma il disco si sente bene, inciso bene, anche si sente che avete fatto con grande volontà di fare praticamente. Sì, beh, grande merito è appunto di William Novati. Citiamo, sì, perché lui ha registrato anche il nostro demo, per cui ci conosceva già, sapeva quanta pazienza avrebbe dovuto, certo, tirare fuori. Che comunque cioè almeno quando sei un po' senti che stai per fare il disco e hai un po' di questo peso addosso, di il parere esterno che venga appunto, che sia venuto da Paolo Messere o da William, è servito anche perché ognuno aveva i propri dubbi, no? Essendo certo, in sei, certo, In sette anche qualche volta. In sette, cioè serviva un po' un parere esterno anche proprio per vedere le cose da fuori, perché magari noi ci fossilizziamo molto spesso nei nostri pezzi, anche in ogni singolo pezzo. Parla al singolare. Io mi fossilizzo sulla... E quindi diciamo che cioè, i problemi di percorso che abbiamo avuto appunto sono stati il più delle volte dovuti a questo mio... No, dai, presunto mio... Presunto... fossilizzarci nel pezzo, ciò che avevamo fatto in saletta, che poi invece magari poteva benissimo cambiare o trovare soluzioni in un'improvvisazione in studio. È normale, quando sei dentro le cose le vedi in una certa maniera. Certamente. Ma a dire il vero, i nostri i pezzi, anche una volta registrati, sono stati modificati. Ad esempio, Adrian, mi colpisce molto che tu la consideri che ti sia piaciuta così, sì, tanto moltissimo. Perché l'avremmo registrata in un modo diverso col senno di poi. Abbiamo avuto poco tempo, forse è stata l'ultima se non mi sbaglio che abbiamo registrato, sì, e appunto avevamo poco tempo, per cui abbiamo utilizzato addirittura delle registrazioni della demo. Però è venuta, ripeto, l'ho detto tante volte, lo ripeto anche qua, per me è un pezzo meraviglioso, bellissimo. E una cosa devo chiedervi: ci sono state altre persone che non abbiamo citato nel disco adesso? Sì, ci sono state la violoncellista, esatto, e la violinista, che sono rispettivamente Marta Fornasari e Silvia Mangiarotti, che sono state preziosissime. Hanno collaborato praticamente. Sì, sì, due splendide signorine. Cosa. Anche Guido, magari. Guido, forse. Che è il Guido ha collaborato tantissimo. Offrendoci, sì, è il proprietario del Downtown Studio. E vino. Okay, ci portava, ci coccolava, sì, sì. Dava le vivande, praticamente. Sì, poi anche la simpatia. È importante, cioè, quello è importante. Una storia mondiale, direi. Una storia mondiale. È decisamente importante. Citazione... Intelligenti Pau. Bene, ce la fate a fare un qualche altro pezzo? Cosa volete suonare? Facciamo i ciliegi. No, non era proprio quella. Ho riposto ogni sera con cura il rosario nella stola che mamma usava di domenica alla messa e d'estate per le more, i bordi dei sentieri di campagna. Passa il suo incedere arata e la terra in cui affondano lenti i miei passi. Torrida estate ti lascio coi fischi del vento nei tronchi di cavi ciliegi, bruciano le stoppie lontano. La cenere arriva fin qui, al calare del sole dalla finestra, un fuoco divampa su poco che resta. Sentire i falchetti pigolare, stare zitti quando gatti girano per tetti. Come andrei per more se il mio corpo non mi avesse imprigionato? Il tempo passa il suo incedere arata e la terra in cui affondano lenti i miei passi. Torrida estate ti lascio coi fischi del vento nei tronchi di cavi ciliegi, bruciano le stoffie lontano. La cenere arriva fin qui. Cala il sole dalla finestra. Il fuoco divampa sul poco che resta. Divampa sul poco che resta. Il fuoco divampa sul poco che resta di me. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua. Ok. Ok, devo sottolineare una cosa, i nostri ascoltatori non lo sanno, anche se, pure i nostri spettatori, il nostro amico si è rotto un'unghia, però sta suonando benissimo lo stesso, bisogna dirlo ste robe, bisogna dirle ste robe. È successo anche durante la registrazione del disco e sono andata in profumeria a comprargli le unghie finte. Ah, perfetto, per riuscire a tagliare pezzi. Con tanto di French manicure, no, e limetta. Perfetto. Con, E succede sempre nei momenti peggiori, automaticamente prima della sera, prima del concerto mi si rompe l'unghia e poi vengo in radio e mi si rompe durante. Quello è il bello, ma è bello, il bello è questo, sei stato, no, sei stato bravissimo, sì, sì. Lo stesso, nessuno ha notato, non ha notato nessuno. Meno male. Giustamente. Io vorrei pubblicamente mostrare la mia stima nei confronti delle sue doti. Ecco. Io ho visto che poi verso il finale del pezzo cercava di, come abbiamo detto prima, colorava sempre, lui colora sempre i pezzi, i colori volutamente, perché questa è la dimensione live che avete deciso di fare ieri sera, avete pensato un po' di giorni a sta parte, oppure dal vivo è così, sempre così, li colori sempre, cioè esci dagli schemi, questo voglio dire. È perché in realtà su carta e col pennarello non sono bravo. Ah, ho capito. Allora lo faccio sulla chitarra. No, beh sì, boh, a me piace giocare sulla chitarra, in realtà poi mi piace molto suonare con le dita, ma in realtà è un po' quello che mi rimane dell'insegnamento classico. E questa è una cosa. Hai studiato chitarra classica? Sì, sì, sì, a me piace molto, tra l'altro, e lo porto poi anche con loro. Non hai citato per nessun chitarrista? A me piace molto Heitor Villa-Lobos, se devo parlare di chitarristi classici. Classici, chiaramente. O Francisco Tarrega. Chitarristi, mi piace molto il chitarrista dei Karate, ora mi sfugge il nome. Sì, è molto bravo. Sì, mi sfugge il nome. Sì, è molto bravo. È molto pulito, e tra l'altro anche col progetto solista, ora che i Karate si sono sciolti, esattamente. Lui aveva dei problemi all'udito, ha questo duo di chitarre acustiche, appunto suona molto in finger picking. Benissimo. A me piace molto. Allora, 23:47, facciamo una piccola sosta per voi. Sentiamo un pezzo da disco. Abbiamo scelto la traccia e il titolo. 4. La 4. Sì, 4. Perfetto, la sentiamo adesso allora. Festeggiare musica. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Abbiamo quasi finito. Sono 23:51, quasi 52 purtroppo. È stata una bella cavalcata, una cavalcata nella vostra musica soprattutto. Nihil Est, Nuvole Notturne del vostro disco. Facciamo le comunicazioni di servizio. Nome del titolo, il titolo del disco abbiamo già detto, Nuvole Notturne. L'etichetta? Sì. L'etichetta è Seahorse Recordings di Paolo Messere. Di Paolo Messere, e la distribuzione distribuito da Audio Globe, e il nostro ufficio stampa è Lunatic. Poi cosa dove si può trovare? Frigge, edizioni Frigge. Il disco dove si può trovare? Si può appunto scaricare in download. Però sì, teoricamente è distribuito anche da Fnac e Feltrinelli. Sì, in perfetto. Caso non si trovasse si può ordinare. Si può ordinare. Ci possono quindi, scrivere. Certamente, insomma. Quindi un'ultima cosa, avete già citato le vostre date, però non fa mica male di citarle un'altra volta. Quelle prossime date che ci saranno? Abbiamo il 9 gennaio, che è il compleanno mio di Pino e della Viola, quindi se volete venire a fare... Sì, più o meno, non tutti. Però diciamo... Una bella meno festa. Festeggiamo tutti insieme. Esattamente. Poi abbiamo il... la locomotiva a Milano. Di Mercate, sì, provincia di Milano. Comunque. Certo. Poi il 18 febbraio siamo a Parma, Materia Off, concertino acustico. Poi il 24 siamo all'Arci Acropolis, sempre di Vimercate. E per ora basta, forse riusciremo ad andare giù a Roma e probabilmente anche al sud. Bene, positivo, molto positivo. Ok, grazie di questa cavalcata. Grazie a voi. Siete stati molto bravi, siete venuti qua da Milano, quindi un po' di ore di macchina avete percorso un po' di chilometri, però è bello quando si percorre di chilometri, ma si suona. I chilometri non pesano, ne vale la pena. Vale la pena. E buon anno a tutti ragazzi, perché ormai questa è l'ultima trasmissione del 2010. Anno. Riprenderemo chiaramente l'anno prossimo, nel 2011, il 3 gennaio con una band, e il 4 gennaio avremo una band di musicisti di Rimini che proporranno cover dei Police, quindi sarà un anti di vigilia della Befana. Terminiamo con quale pezzo, ragazzi? Terminiamo con l'estasi di Santa Teresa che sfocia in 10 minuti, che è l'ultimo. Che poi non si chiama 10 minuti, noi lo chiamiamo 10 minuti perché 10 minuti al telefono. Tutte le canzoni hanno nomignoli. Certo, certamente. Grazie a Michele Toson e buonanotte a tutti. Blu Radio. Fammi capire, dai un minuto alla mia testa, d'improvviso c'è una festa, tra mille paure mai vecchie, nei piattini serviti i miei nervi fatti a fette. Fammi provare, non si può rinsavire, i muri crollano, non so ricucire gli strappi, le pecche, gli inganni, la mente puttana mi mente rapisce significati. La tua logica ride di me, barcolla nervosa, succube come ipnotizzata da Dio. Fammi pensare, levati di mezzo, anzi no, giochiamo mano per mano, mi sento lontano, corriamo lontano, non farmi muovere, ti prego, trattienimi lontano. Donati a me, flebile lucciola impazzita, terrò alzato il tuo mondo fragile sulle mie dita, e lascia che la tua enfasi si calmi sul mio respiro. Thank you. Blu Radio. Radio.